Bordo Campo di Dario Ricci. Anzitutto, naturalmente, la ferma condanna dell'episodio e del comportamento tenuto nei confronti di Balotelli, l'assoluta contrasto ad ogni forma che possa risultare essere di discriminazione razziale. Questa è la voce di Giancarlo Abete, il presidente della Federcalcio. Oggi a Bordo Campo parliamo proprio di calcio e di razzismo alla luce di quanto accaduto a Torino, dei cori razzisti contro Mario Balotelli nel big match scudetto tra Juventus ed Inter. Uno di quei cori diceva: non esistono neri italiani. A Bordo Campo oggi raccoglie questa sfida e ne parliamo con Mauro Valeri, dottore in sociologia, psicoterapeuta. Buonasera, professor Valeri. Salve. Direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Xenofobia dal 1992 al 96 e poi autore di molti testi sul tema e anche sul rapporto tra razzismo e calcio. Ne ricordo alcuni: La razza in campo, per una storia della rivoluzione nera nel calcio del 2005 e poi soprattutto Black Italians, atleti neri in maglia azzurra. Professore, allora, non esistono neri italiani, si canta negli stadi, che effetto le fa? Devo dire che purtroppo non è una novità, sono un po' di anni ormai che, soprattutto di fronte a atleti appunto neri, diciamo, dalla pelle un po' più scura, ma italiani, che riescono ad avere buoni risultati, ci sono frange purtroppo sempre più numerose che rispondono a questa trasformazione che ha lo sport, così come la società, con atteggiamenti fortemente razzisti. Era stato Myers, quando ha indossato la maglia della nazionale come l'alfiere per il basket e le Olimpiadi, e oggi ce l'hanno con Mario Balotelli e con altri Black Italians. Ecco, ricordava appunto Carlton Myers, addirittura portabandiera della spedizione azzurra Sydney 2000, e poi così in ordine sparso campioni dell'atletica leggera come Fiona May, Andrew Howe. Da cosa nasce la sopravvivenza di questo stereotipo, in particolare nel mondo dello sport, in particolare nello sport azzurro? Guardi, il problema è che c'è una rappresentazione dell'Italia, diciamo, questo è il razzismo, diciamo, più radicato anche da noi, che è quella che noi siamo un paese di soli bianchi e probabilmente di un'unica religione, di un unico gruppo razziale e culturale. Io ho trovato una storia, per dire che quanto la storia purtroppo è lunga, di questi episodi, nel 1928, quando a vincere un campionato d'Italia, un campionato valevole anche per il titolo europeo, era un certo Leone Iacovacci, un romano dalla pelle scura, chiamato invincibile mulatto. Il giorno dopo la sua vittoria, un giornale come la Gazzetta dello Sport scrisse: non può essere un nero a rappresentare l'Italia. E ci fu un dibattito tra i giornali sportivi dell'epoca sul fatto che non possono esistere italiani dal sangue negro. Quindi, voglio dire, non stiamo parlando di una cosa così superficiale, purtroppo è molto radicata nella cultura italiana il fatto che non esistono neri italiani. Balotelli in più paga purtroppo il fatto che lui gioca il calcio, cioè gioca lo sport nazionale. Le persone a cui faceva riferimento prima lei sono tutte persone molto importanti per lo sport, ma di sport cosiddetti minori. Nessuno si è accorto, per esempio, che a Pechino erano 8 i Black Italians che hanno gareggiato appunto per la nostra nazionale nei vari sport, soprattutto in atletica. Vederlo nel calcio è qualcosa che disturba, perché è proprio il simbolo della trasformazione in atto. L'altro luogo comune vuole che, insomma, italiani brava gente, in fondo non siamo stati storicamente mai un popolo di razzisti, l'accoglienza italiana. Da quello che ci dice, il contorno del discorso è leggermente diverso. Io, appunto, nessuno vuole buttare, come dire, la croce addosso agli italiani, ma è vero che noi abbiamo, e forse rispetto ad altri paesi non abbiamo mai elaborato adeguatamente anche il nostro razzismo che abbiamo avuto, come tanti altri paesi. Abbiamo avuto le nostre esperienze coloniali, non solo, abbiamo avuto un'esperienza anche nei paesi, per esempio, dove vivevano molte persone nere, come in Brasile, dove siamo stati anche accusati di razzismo. Ripeto, andrebbe affrontato questo ragionamento senza particolari, come dire, critiche per forza estremiste, però devo dire, basta ricordarsi negli anni 60 i figli delle coppie miste venivano visitati e misurati con i centimetri per vedere le orecchie o il naso quanti erano grandi, perché se considerati troppo vicini alla razza nera erano considerati persone con forte disagio psichico. Questo lo dico negli anni 60 in Italia, non sto parlando di un paese dell'America della Louisiana, stiamo parlando purtroppo di un paese che non ha mai voluto affrontarlo. E lo dico con tristezza, l'articolo 3 della Costituzione, per esempio, fa riferimento a una serie di diversità dell'Italia che devono essere tutelate, la religione, il genere, la lingua, e parla ancora di razza, e invece dovrebbe parlare forse di colore della pelle, perché è uno degli elementi cardine anche della costruzione dello stereotipo. Non a caso, ad esempio, il presidente della Camera Fini ha già parlato da tempo, anticipando il tema, di generazione Balotelli, come dire, questo è il futuro e questa è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. Però concretamente, professore, su quali punti lavorare, da quali punti partire per cambiare una cultura? Io dico, le cose che ha detto Presidente Fini sono estremamente chiare e estremamente, dico, anche coraggiose, perché pongono il problema per quello che è. Bisognerebbe avere il coraggio, iniziando a raccontare ai ragazzi, ai nostri ragazzi nelle scuole, appunto, che l'Italia è sempre stato e per fortuna un paese multirazziale, che ha avuto tra gli atleti, tra altri personaggi, per esempio sono dei partigiani, persone che hanno lottato per questo paese, per liberare questo paese, italiani neri ma dimenticati. Fa parte della storia dell'Italia, non è importante, come direbbe Bob Marley, il colore della pelle, non dovrebbe essere così differente dal colore dalla differenza del colore degli occhi. Vanno lavorato molto con i ragazzi, perché ragazzi, è vero, c'è una generazione nuova in Italia che però rischia di riprodurre gli stereotipi di sempre. Vanno costruito insieme a loro invece l'importanza di essere anche italiani, di essere persone capaci di andare al di là del colore della pelle, ma verificare e soprattutto valorizzare le altre qualità che si ha in comune anche. Bisogna stare attenti, ogni volta sembra che noi siamo sorpresi dall'evento e facciamo le cose, le dichiarazioni di guerra sul singolo evento, porte chiuse. Io su questo un po' mi dispiace, anche perché sono anni che io dirigo un osservatorio sul razzismo nel calcio e da almeno 4 anni noi segnaliamo anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, così come all'area calcio, il problema del razzismo crescente, che è di alcune curve misurate, si può intervenire. Per esempio abbiamo chiesto di poter lavorare con le scuole calcio, perché esiste anche nel codice della giustizia sportiva proprio la lotta al razzismo, al di là del problema ideologico, e proprio fa parte dello sport. Se vuoi diventare un calciatore e un tifoso, un arbitro, un dirigente sportivo, devi combattere il razzismo, questo lo dice la legge sportiva. Nelle scuole calcio questo non viene fatto, purtroppo, almeno non viene fatto in maniera, secondo noi, adeguata, e andrebbe educato il ragazzino, già da quando tira i primi calci, a abituarsi che il colore della pelle sua, del suo amichetto, non ha un valore, non deve avere alcun valore. Professore, mi interessa sentire un suo commento su queste parole. È José Mourinho che parla, il tecnico dell'Inter. Io penso che non è razzismo, veramente. Razzismo è razzismo per tutti, non è razzismo solo per i giocatori avversari. Non mi sembra che è razzismo, mi sembra che è un modo ignorante, un modo stupido, infantile, di manifestare che questo giocatore non mi piace. E perché non mi piace? Non mi piace non perché è africano, non mi piace perché è bravo, e non mi piace perché segna contro la mia squadra. José Mourinho, appunto, intervenuto sul caso Balotelli, chiaramente condanna unanime, ma poi ci sono anche i giorni, il momento dei distinguo. Ma insomma, questi cori, almeno dal suo punto di vista, razzisti o no? Ignoranza o odio per il nero? Allora, mi piacerebbe, quando chiunque dica queste affermazioni, che spieghi che cos'è allora il razzismo. Se dire sporco negro, lo dico io così è più chiaro, o negro di merda, non è razzismo, qualcuno mi deve spiegare qual è il razzismo. Cioè, sarebbe interessante, allora, se nessuno dice che è razzismo, qualcuno abbia il coraggio di spiegare, da Abete al Presidente della Lega, a chiunque altro, a Mourinho, cos'è il razzismo. perché stiamo prendendosi in giro, perché questo gioco di dire non è razzismo ma è scherno, io voglio capire che cos'è allora il razzismo. Se uno in giro dice delle frasi così come vengono dette per strada, così come vengono dette negli stati, sono considerati razzismo. A questo punto mi sembrerebbe che non esiste più la definizione di razzismo. Cosa deve essere? Deve essere il lancio della banana come viene fatto in alcuni stati? Io ho la mia idea, cioè secondo me l'insulto in base al colore della pelle è comunque un'espressione di razzismo, lo dice la storia, lo dicono le regole, quello che è stato detto a Balotelli, detto in Europa, sarebbe stato condannato immediatamente. Mi piacerebbe, ripeto, riaprire il dibattito. Allora, che cos'è? Se Mourinho spiega bene che cos'è il razzismo, io sarei molto più felice. Mi preoccupa quando dice soltanto, così come dicono molti in Italia, non è il razzismo ma è. E allora qual è il razzismo? Esiste il razzismo? Si provano ad avanzare delle ipotesi per arginare il fenomeno. Sentiamo che cosa ha detto il presidente dell'UEFA, Michel Platini. Noi al livello dell'UEFA noi proveremo da oggi in poi, quando ci sono delle cose così sulle campi da calcio, di chiudere la partita, di smettere di giocare per una decina di minuti, dopo di fare dei annunci, di ricominciare. Sì, la cosa continua così, proveremo di chiudere la partita. Bisognerà avere del coraggio di farlo. Quello che dobbiamo fare è di sospendere la partita quando ci sono questi atti di sulle spalti. Professor Valeri, in conclusione, Platini ha proposto appunto la sospensione temporanea dei match, poi in caso la situazione non migliori addirittura definitiva. Può essere questa un deterrente, oppure cosa fare concretamente? Penso che il modello UEFA vada preso nella sua complessività, cioè vanno prese misure repressive senza esagerarne troppo, ma soprattutto, così come fa la UEFA, vanno prese misure, diciamo, preventive. Va ricostruito un lavoro con i ragazzi, con i tifosi, con le persone per bene che vanno ancora allo stadio e esprimono lo sport, di stabilire un rapporto che faccia appunto dell'antirazzismo la modalità normale. Ci sono delle tifoserie, faccio l'esempio della Lazio, che è spesso accusata anche giustamente di cori razzisti, che per ben due volte ha avuto la pena ridotta perché altri tifosi hanno applaudito invece per cancellare gli ululati razzisti. Va preso il progetto nella sua totalità, cioè non basta soltanto la parte punitiva in questo momento. Io vorrei sentire dei progetti, per esempio, che coinvolgono i ragazzi dalle scuole calci, corsi di formazione per gli allenatori e anche dei corsi per i giocatori, per spiegare loro cos'è, cosa non è il razzismo e come va combattuto. Per fare questo servono fondi. Io da anni ci battiamo perché, così come fa la UEFA, le multe, i soldi ottenuti dalle multe delle società che vengono appunto multate per episodi di razzismo, che finiscono alla Lega Calcio, devono essere riutilizzate dalla Lega Calcio per interventi strutturali contro il razzismo, per evitare che ci si risenta fra un mese e due mesi con le stesse condizioni, aumentando soltanto le pene senza intervenire a livello complessivo. Professor Mauro Valeri, la ringrazio e mi permetta di chiudere così, con un augurio. Buon calcio di qualsiasi colore sia. Buon calcio a tutti, allora. A bordo campo. Milano, una corona dei volontari della libertà, insieme con la loro bandiera, apre il corteo delle famiglie. Nell'anniversario della liberazione si posa al Musocco la prima pietra per il mausoleo dei partigiani caduti. I morti ci dicono: difendete la pace. Congiunti, compagni di formazione e tutti gli italiani memori onorano la sepoltura di chi non vide la libertà per cui diede la vita. Voci lontane, voci d'epoca, quelle che sentiamo oggi qui a bordo campo. Vogliamo ricordare a nostro modo il 25 aprile, data storica per la nostra Repubblica, data di dibattiti, polemiche attuali, ma anche un giorno particolare per la storia del nostro sport e per la storia di una delle grandi bandiere del nostro basket. Parliamo di basket e allora sicuramente non vi sorprenderà trovare al mio fianco qui in studio Flavio Suardi. Buongiorno Flavio. Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Flavio è esperto di basket e di sport, come ben sapete, ma anche autore del libro biografia di Sandro Gamba, il signore del basket, da via Washington alla Hall of Fame. Sandro Gamba, uno dei grandi protagonisti del basket italiano, argento olimpico come allenatore con l'Italia a Mosca 1980, ma poi ancora prima come grande giocatore protagonista con la maglia dell'Olimpia Milano, uno dei pochi italiani nella Hall of Fame del basket mondiale. Allora, coach, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui a bordo campo. Perché la disturbiamo proprio in occasione del 25 aprile? Perché, come ha raccontato Flavio nel suo libro, per lei quella data è sicuramente una data particolare, 25 aprile 1945. In che contesto ci muoviamo, Flavio? Ci muoviamo nel contesto di una Milano che stava cominciando ad assaggiare la liberazione, in un contesto che era chiaramente bellico, non ancora post bellico, ovviamente, in un contesto in cui però c'era anche un velo di dispensieratezza, perché per esempio i ragazzini e i bambini, tra i quali anche Sandro Gamba, riuscivano comunque a trovare dei momenti per sorridere in quel momento, e da lì nasce una storia che è un po' l'incipit non solo della nostra Repubblica, del nostro paese, ma anche proprio della storia di Sandro Gamba. Però è meglio forse che lo racconti lui. Beh, coach, allora non ci tenga sulle spine. Va bene. Che 25 aprile 1945 fu il suo? Ma intanto ho cominciato al mattino alle 8 che la radio, la famosa EIAR, ha annunciato che ormai i partigiani erano entrati o stavano entrando in Milano, perciò non andare a scuola, non andate a lavorare, lasciate le strade libere. Naturalmente le strade erano sempre libere perché non c'era traffico. E noi bambini siamo usciti, noi bambini avevamo 10, 11, 12 anni, io non avevo compiuto ancora i 13 anni per la verità, siamo andati sulla via Washington dove io vivevo, al numero 25, a giocare al calcio. La strada è larga, tuttora si può vedere, e abbiamo cominciato a giocare. A un certo punto, questo era verso la 1, 1:30 del pomeriggio, da una parte arrivano delle camionette su dei disperati che poi abbiamo capito che erano dei partigiani, dall'altra passavano velocissime delle macchine che erano fascisti e nazisti che stavano scappando. Allora hanno trovato la buona idea di spararsi tra di loro, e noi eravamo in mezzo a questa sparatoria molto fitta, ci buttavamo per terra, scappavamo, eravamo bambini, non avevamo bene la cognizione di quello che poteva succedere. E una raffica di mitra mi ha spappolato la mano destra, e un proiettile anche, mi ricordo, mi bucò i calzoni. Poi ho visto sangue che colava, però sono entrato in una portineria, gli ho detto un po' d'acqua qua, poi sono caduto per terra perché il sangue era molto e non avevo più forze. Beh, non è un buon inizio per una carriera di un grande giocatore di basket. Sì. Cosa è successo dopo? È successo che è venuto un signore che mi ha raccolto e mi ha messo su un divano di casa sua, era lì a pian terreno, e dopodiché mi ha portato in un ospedale nella scuola elementare che c'è in Piazza Sicilia, tuttora c'è questa scuola, e lì mi ha medicato, mi hanno preso un asciugamano, mi hanno fatto su, mi hanno avvolto la mano e mi hanno portato in un ospedale in via Monte Rosa, dove sono stato una settimana, e poi mi hanno mandato a casa. Non c'erano cure, non c'era niente, il bendaggio era fatto dai teli lì strappati dagli asciugamani, e per reggere la mano un po' diritta, dargli una forma decente, aveva messo sotto un coperchio di una scatola di scarpe. Però la prima intenzione era quella di amputare la mano, perché era massacrata. Però qui Sandro, detto, no, esatto, qui entra in gioco la tua famiglia, qui, sì, perché la mia famiglia, no, non amputiamo, come resta la mano cerchiamo di salvarla, facciamo di tutto per salvarla. Sono passate un po' di settimane e le ferite naturalmente sono guarite, però tutte le ossa erano malmesse, erano state frantumate, e il problema era di rieducare questa mano. E quindi qui entra in gioco la tua migliore amica per 3 anni, una pallina da tennis. Una pallina da tennis che era tutta consumata, perché allora le palline da tennis le usavamo per giocare al calcio in strada, era tutta spelata, e me la sono tenuta in tasca per 2 o 3 anni, forse anche di più, a scuola in ogni momento, e cercavo di strizzarla, di farla per riacquisire un po' di manualità. E sempre in quell'epoca lì, nell'estate del 45, poi verso l'agosto, in via Washington